Le chiedo due parole su Project Room, che cos'è all'interno del Mambo e chi è Caterina Molteni. Bene, Project Room è uno dei luoghi più significativi e importanti per la programmazione del museo. È il luogo dove il museo pubblico, il Mambo, il museo di arte contemporanea più importante della città e della regione Emilia-Romagna, costruisce le sue basi. Abbiamo deciso con il gruppo di lavoro e i curatori, le curatrici che lavorano con me, di dedicare uno spazio che è importante, collocato all'interno del percorso della collezione permanente, cioè il luogo laddove si definisce l'identità del museo, alle esperienze passate e presenti più importanti del territorio di Bologna e dell'Emilia-Romagna. Quindi un luogo in cui il museo definisce, scrive la base, costruisce l'identità e che sta veramente alla base dell'appropriazione contemporanea. È vero, un museo d'arte contemporanea deve guardare avanti, deve guardare altrove, deve portare anche nella città esperienze e linguaggi diversi, ma lo deve fare consapevole di quella che è stata la sua storia, il suo contesto, le azioni, le persone, i luoghi che hanno costruito l'identità di quel luogo e collegarsi a queste esperienze del passato. E questo è quello che viene fatto all'interno della Project Room del Mambo, attraverso una fitta programmazione di circa 3-4 mostre all'anno, che sono dedicate ai protagonisti, ai luoghi più importanti, alle esperienze significative che hanno plasmato l'identità di Bologna e dell'Emilia-Romagna come uno dei luoghi di sperimentazione più importanti per l'Italia e non solo a livello internazionale. È per questo che le mostre in Project Room, che molto spesso non sono curate da me in prima persona come direttore artistico, ma accolgono proposte che arrivano dall'interno e dall'esterno del museo, e in questo caso una proposta che arriva da Caterina Molteni, che è la curatrice del Mambo, quindi arriva dall'interno del nostro staff accolgono pulsioni, esperienze, stimoli che arrivano anche dagli altri campi dell'agire, del pensiero, della produzione di arti visive, non solo dall'arte visiva tout court, pittura, scultura, installazione, ma anche dal design, dalla grafica, dalla danza, dalla performance, tutte quelle figure che sono riuscite a pensare al di là delle compartimentazioni. Valeria Magli è sicuramente una figura emblematica in questo senso, un artista che è riuscito a mixare arti visive, danza e performance e a contribuire alla creazione di un ambiente a Bologna e non solo aperto a questo tipo di sperimentazione. Ed è per questo che con la mostra Morbid cerchiamo di situare l'esperienza di Valeria Magli non solo a Bologna, dove comunque è conosciuta e è stata una delle protagoniste della terza settimana internazionale della performance, quindi è un'artista ben situata, ma di rappresentare l'importanza anche per il contesto internazionale. La Project Room all'interno della collezione permanente del Mambo è un luogo visitato da oltre 100.000 visitatori all'anno, la maggior parte stranieri. Ecco, abbiamo una responsabilità nei confronti di questi visitatori per fare capire dove sono le radici del luogo che stanno visitando e quali sono le esperienze più importanti che hanno plasmato il territorio in cui sono venuti in visita. Grazie. Grazie a te.